non credevo mai più di incontrarmi con te, ma la fatalità predispone le cose e si rifà con te dopo che ti ha deluso. No, non mi scorderò mai. Ti sorrido perché sto accorgendomi che se il tempo quando può l'altra gente sfigura, non ha cambiato in te che la pettinatura. No, non mi scorderò mai niente di te. Sposarmi io e con chi non diciamo eresie, amo la libertà e poi tra me e te eran donne così soltanto in parte mie, ma fermiamoci a un bar e parlami di te. Cosa fai? Come stai? Vivi sola perché sei divisa da lui, ma com'è? Che ando male, son sicuro che i tuoi saranno morti di bile. No, non mi scorderò mai. Chi avrebbe detto mai che non si sa perché il caso e niente più ci mettesse di fronte e ti portassi a me da un passato distante. No, non mi scorderò mai. Cosa dirti non so, il ricordo di noi mi ha confuso le idee fin dal primo minuto. E io rivedo in te la guerra che ho perduto. No, non mi scorderò mai niente di te. L'amore era per me la mia unica arma quando avevano i tuoi ben altre velleità, contro cui, grande o no, un amore disarma e ti hanno dato a chi ti dava più di me. Ti ho cercato, ma tu non uscivi mai. Quante volte non so ti ho scritto ed aspettato, non hai risposto mai e infine ho rinunciato. No, non lo scorderò mai. È già tardi oramai, qui ci mandano via. Ti accompagno se vuoi mentre l'alba è in attesa, come al tempo remoto dei baci sotto casa. No, no, non lo scorderò mai. Quel tempo era per noi il tempo dell'amore. Non temevamo mai né inverno né autunno. Era estate per noi ogni giorno dell'anno. No, no, non mi scorderò mai niente. Niente di noi. Non sai quanto mi dà la tua sola presenza. Non immagini più il bene che mi fa immergermi con te nella mia adolescenza, risalire con te. Da tanto tempo fa io vorrei, se vuoi, rivedermi con te. Non insisto, però così, se lo ritieni, se ne hai voglia anche tu, se non hai altri impegni, se ti ricordi anche tu come me che non scorderò mai.